anche lunedì o martedì, hai capito? Se è fatto un po' così, come fai a me a fare l'antenna? Se fa bel tempo già vediamo cosa si può fare, eh? Ok, non lo so, Antonio, è bene qua di piazzare una Gran Prix di quelle grandi. La Gran Prix provvisoria, ma ce l'ho io la Gran Prix provvisoria, perché l'abbiamo tutti sempre, vabbè, ma cosa ci vuole 5 minuti, non ci vuole neanche tanto, come l'altra volta, non c'è bisogno di mettere la Gran Prix adesso. Ah, per il limite provvisoria per le gaffe così, finché non mettiamo le gaffe nuove. Allora smontiamo la B27, smontiamo, la mettiamo da una parte, intanto io l'assalto e provvisoriamente possiamo mettere la Gran Prix. C'ero io la Gran Prix, già lo sai, messa nella scatola, possiamo piazzare provvisoriamente quella. E così non lo lasci senza antenne, capito? Tu di quella B27L e le piatti con la Gran Prix. E nel frattempo si prepara lo staff e tutto il resto, così tu quella di piano piano te la porti a casa, te la saldi, hai capito? E niente, e così tranquillamente si può fare una chiacchierata lui nel frattempo che sistemi quella. Già si può fare, già lo sa che c'è la gamba di riserva, meno male, sempre tenuta una parte, proprio per questo motivo. Nel caso capiti magari di fare qualche introduzione a qualcuno senza antenna, bisogna che si piazza con la già leggera, non è un problema, perché sono 5 minuti a installarla. Riprendici. È positiva, allora, adesso sto mettendo questo per quello di quell'ala CTE, va bene anche con questo il microfono, fatti vedere. Ma devo essere sincero che è più bello questo di quello amplificato su quella radio, oggi, adesso ti fa una bella radio questo. Positivo, proprio il coso che mi ha dato tu, gli ho messo qua, è tornato tutto alla perfezione, Pompo. È cambiato quello delle fine corse, sì. E quello che non andava, non se andava né banda laterale, né NFM, ma ho messo quello e ha funzionato tutto. Perché io quando lo giravo non faceva quello infatti non lo faceva, invece come gli ho messo quello lì, quello ha controllato col test e l'altro no, e non dava coso. Come gli ho messo questo, a voglia, va bene, è tornato perfetto su tutti i canali, però in FM mi pare che non sia perfetto, lo sai. Lo possiamo provare in FM, mi pare che non è perfetto, In FM in trasmissione devi toccare il clima e il tempo, c'è scritto, e in pratica ti centri in trasmissione, non parli più di radio, se l'eccezione funziona bene non c'è tempo, perché di fine cose non c'è tempo niente, dovete controllare in AM se sei centrato, che fine cose è proprio 27 per dire 0, 15, punto 0, 0, FM è altrettanto. Il fine cose si usa solamente per la banda laterale, per fare lo spostamento. No, quel fine cosa non funzionava neanche, perché era spostato, era deve essere girato di qualcosa, hai capito, Pompo? Era bloccato, girato da qualche parte, non mi andava bene neanche in AM, dovevo essere a cavallo tra... Adesso qua dovevo essere sul 6 io, hai capito? E sul 6 riuscivo a sentire un po', hai capito? Quindi guarda, infatti funziona adesso, già non c'è problema, infatti in quel pezzo lì si è andato bene che funziona, sono contento, almeno ti hai recuperato un baracchino. Proviamo in FM e poi voglio vedere conferma, in FM proviamo. Che prova in FM, là? Vediamo. Sì, perfetto, mi ascolti bene? Perfetto, lui, infatti sono uscito dalle memorie. E ti volevo centrare bene per vedere se eri giusto. 27015.0, sì, perfetto. Poi tu in FM come mi ascolti? Beh, sei centrato. Va bene anche in FM, dai. In banda laterale vi devo centrare io, voi. Dobbiamo provare anche USB, tanto che ci siamo. Prima mettiti le cose, lasciati le cose al centro, uno e l'altro, tutti e due, e poi già al limite ti centro io, ti dico se sei spostato oppure no. Mm-hmm. più, sono proprio lanciati al centro. A centro, i pomilli sono a centro. Cercatemi voi e poi vediamo se si è svoltato di qualcosa. Allora, io ti sento bene e potresti dire, va bene, lasciate verso il mio adesso, forse mi hai lasciato. Perfetto. Per me non si è spostato, se si è spostato sei di 0,01, non di più. Vediamo Pomponio. Dimmi, sono qua. Popo, prova tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, io mi sento spostato, allora c'è cosa che vuole regolata. C'è cosa che vuole... Allora, io mi centro perfettamente a te, Massimiliano, adesso, mi metto perfetto a te, parla. Allora, lui, si è spostato di qualche hertz, perché io ti ascolto in banda 27.015.2, hai capito? Allora, così ti è centrato con me e io sono, mi sono spostato, per, così io ti ascolto benissimo, però non so se tu ascolti a me così. Sì, io ti ascolto bene, però sei spostato di 2 Hz, capito? A posto di essere 27.015.0, sì, 27.015.2. Allora, così io ti ho centrato bene a te adesso, però sono spostato io e sono girato un po' a sinistra, hai capito? Sono spostato un po', però ti ho centrato a te, non sono Pompulio, prova Pompu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda se sono centrato. Vabbè, più o meno che ho 20 anni, quindi potrebbe essere anche leggermente fuori frequenza, interessa. Io mi sento precisi, a te ascolto, mi sento bene così, così vi ascolto bene io, un po'. Ascolto bene a te e anche a Massimiliano. E non so se voi mi ascoltate perfetto o male. Pompuio, non c'è. Che è questo? Che è questo? E ti ascolto bene lui, comunque è tutto a posto. Ma non funziona nulla che fosse un M, cazzo. Ma più che bene, dai. A voi va bene, no, invece io quando parlo a Pomponio mi devo spostare a 0,15. Hai capito lui? E invece per ascoltare bene a te 0,15.2. Positivo, ascolta, ma se io ti ascolto bene, se io, allora aspetta, adesso mi metto a centro nuovamente, Massimiliano, io mi sono messo a centro con le cose, ecco, tu vai e centrami così, io sono messo a centro adesso, proprio a centro di cosa, provami così a vedere, Massimiliano, prova a vedere. Allora, aspetta che faccio io, allora io mi metto a 27.015.0 e poi mi dici se tu a me mi ascolti bene, aspetta, Allora lui, io così sono 27.015.0. Mi ascolti bene? No, non ti ascolto bene, centrato io non ti ascolto bene, ti dovrei cercare. Tu centrati bene, mettiti a centro tu e ti cerco io a vedere di qua. E poi vedi di quanto sono spostato. Massimiliano. Io chi è? Ciao Tino. Sì, perfetto. Ciao T, buonasera. Sì, io sono a 27.015.0, però per ascoltare bene a Gigi mi devo andare 0.15.2, hai capito? Vai lui, prova a vedere. No, qua io ti ascolto, mi sono spostato io per ascoltare a te, Massimiliano. Io così sei come in verticale, mica me. E io invece non ti ascolto bene così, hai capito lui? Eppure Tino mi dovrebbe ascoltare bene, giusto? Sarà fuori frequenza, dai. Ma ti vedi, tu sei perfetto, a tuello così così. Ciao Tino, muscolo. Certo, è appena fuori, sì. Vabbè, sono col 39, con te, voleva. Se la faccio tutti i fiumi adesso. Io fuori su. No, ce l'hai dentro i pantaloni. Sì, anche tu sei 0.15.0, perfetto. Ehi, cazzo, dai, non ho copiato l'amico che è appena fuori frequenza, ma di poco. Gigi Vulcano, Gigi, avanti. Ah, ciao Gigi. Ciao Tino, io ho cercato di centrarmi a voi adesso, non so dove mi sia, dove alto. No, io ho cercato i centrali a te adesso, io, allora io sento bene, sia Massimiliano che a te, mi ascolto perfettamente, invece per pure non so se abbia appena appena. Riprendevo a finire poi per segnare, dai. Allora, aspetta, scusa. Allora, io ti ascolto a 27.014 e 95, dai, circa, 98, 95. Sì, perfetto. Però si è stata la frequenza tu. Adesso ha attaccato il timbro, sono centrato, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso ci sei anche tu, pompone. Adesso sono così 80. Cambia la musica, cosa devo osservare adesso? Lì, anche tu sei perfetto qua. No, è Gigi che si è. Gigi, dai, è quella radiolina lì che è spostata, non è di poca roba, eh. È di poco è spostata. Positivo, è interessante che funziona, tanto va bene, c'è anche qualche altro, che funziona, che va in quelle parti lì. Allora, Gigi, adesso per ascoltarti bene, sì, a 27.014.1. Positivo, c'è quest'altro, vedi? Accendi, accendi. Dico, così tu che ascolti male a me, è vero? Ci rimango in 14.9. Ti devo centrare, Massimiliano, non sei perfetto come Focardi. E anche tu magari mi dovresti sentire male ora. No, sono ripassato a 0.15 perché ti ascoltavo male anche io, sì, è vero. Alessio, come sono lì da te? Positivo, dai, a segnale come siamo? Dove sei? Sei a bomba. E io come? Ma te come sono? Uguale anche tu, chiedere come ho fatto, segnale uguale. Va bene, dai. Vabbè, signore, dai, vi saluto, riprendetelo che sono al computer, sto facendo un po' di pulizia di fotografie. Ciao. Buona continuazione, ci sentiamo nel prossimo. Ciao, ciao, avanti, Ale. Ciao, ci sentiamo nel prossimo caso. Avanti, Vulcano Gigi. Gigi, dove sei andato a finire? Ma non c'è più. Mamma mia, lui, sei bassissimo di radio, ma proprio basso, basso, basso, basso. Gigi, passa una M, Gigi, passa una M, dai. Qualcosa, perché lì c'è qualcosa che non va, sei Santiago 7, segnalami. Sei Santiago 7, la radio è bassissima, controllati qualcosa. E guarda adesso a vedere. Ma sì. Stai pure fatta la laterale, hai sbagliato qualche cosa. Ma sei tu, chi è che mi stava chiamando e manda laterale? Chi è avanti? Entra nel gatto da voi, ci tagliamo la muta, va bene, va. Ok, riprendi poco. Positivo. Aspetta che vedo il processo, se no non mi sentivo il raglio. In banda 3 bisogna che attacco il processo, se no ci sto un po' forte qua. Pappa, no, vedi, c'era uno, il signor Bulldozer mi ha chiamato, come mi ascolti? E da lui, Sergio Matteo, che si guarda la multa. Va bene. Ok, no, lui, eri basso, basso, basso in banda, eh. Adesso ti ascolto bene. Sì, ma devo fare una prova, voglio vedere se funziona. Vai, vai un attimo solo di prova. Lasciami via. Chi è? No, fai lo io, vai, fai lo io. Ascolta, no, mi ha dato un casino di ricordo, no, vai, non ti ho risposto per quello. Abbassa quell'eco che sei incomprensibile, sta. Ma un secondo che... Vai, chi manda la terale a vedere? Sono qua, giù. Andato a Nevera, ok, perfetto. Vai G. Positivo, ho sbagliato microfono e adesso già ho preso quello giusto. Stavo rispondendo col microfono sbagliato. Riprendi un attimo, Ale, che mi devo allontanare un secondo. Ti d'accordo, ti riprendo io allora. Ah, che bella motore, ecco, si attacca un po' tanto. Una taccoccia che... mi sembra il secondo piedino, quello da 1000 microfono da 16 volts, se no non l'audio non c'è la ricezione. Con l'integrato fa da in ricezione fa e anche audio, se li cambia quello riceve subito. Capito lui? Dai, io sono... Dimmi. chimico. Sei un chimico, deve sapere queste cose, capito? Il Cappagliato 7222, quello che mi ha dato, ce l'ho già dato. È andato Massimiliano. Basta che ci metta quel finale, funziona subito l'eccezione. E quello gli sta cambiando, quello gli sta, deve mettere, quello gli deve mettere, hai capito? Ha cambiato tutte quelle che ti ha dicendo tu, lui sicuramente l'ha già fatte quelle lì. E l'unico gli è rimasto, lui ha detto che è quel finale lì, hai capito? Quel finale, per quello lì, e infatti doveva montare e vedere se poteva andare. E tranquillo che già va, a meno che non si è ripetuto di quel finale, ma il strano. Perché chi me l'ha dato per baracchino mi ha detto che gli mancavano solo i finali di trasmissione. In realtà funzionava tutto. Capito? Quindi stai tranquillo, già funziona quel 4005 là. Una volta che devi cambiare quello. Adesso io ho perso il numero di cose, secondo me se l'hai fatto valere 3.000 euro, lo sei sistemato. L'avevo riparato una volta, ma non c'era un tubo lo stesso, avevo cambiato tutti i finali PLL, e mi sono dimenticato di cambiare di quelle 7222 quella volta. Adesso se carico per l'amico 3.009 me lo prendo, che è nuovo, mai usato, un fulmine ce l'ha acceso, credo. Io ho cambiato gli MC di PLL e anche gli altri tre, ma erano ricezione zero e non eravamo in trasmissione. Neanche me lo faccio fare adesso, dato che ne ho uno qui, che sta qui pensi da questo, lo metto dall'altro. Vado provo a uno con i pizzi e vediamo un po'. Ma se vediamo. Sì, comunque prima di portarlo ci devo far vedere quella roba lì. Ah, quello ne ha parlato l'altra volta? È positivo. Al limite, domani mattina, se ci sei, prendiamo il caffè. Che glielo scelto domani, ma non so se non ne ho voglia là, non ne ho voglia da darci. Non ne ho voglia, e niente là, vediamo un po'. Ah, se lo prende lui? E in cambio di altra cosa glielo do, tanto io non me ne faccio niente. Ma già, me l'avete detto, cazzo, se avevate il flusso? Che venduto te l'hai il flusso? No! Mi avessi dato quella cosa lì, ti avrei dato il frutto io in cambio. Ma vieni a vederlo, io ancora no, tu vieni a vederlo. Non lo so se tu poi lo vedi, però non lo so, vieni a vederlo. Chiama, non mi muovo, lui, adesso tra poco uscire, capito? È positivo, Comunque, se gli ho detto già a lui, fai con lui, non c'è problema. Adesso glielo facciamo vedere, non è niente di cosa, glielo dovevo far vedere, capito? Glielo far vedere, capito? Ciao Eugenio! Già ti ascoltiamo ancora, non c'è problema. No, gli sta andando bene, dai, gli sta andando bene. Non c'è problema, è ok. Di qua se riesci a prendermi questo 750. Lo vuoi vendere? Se c'è qualcuno te lo faccio vendere, sì. Ma di volta, intanto si è preparcheggiato lì. È positivo. Ma il telefono portato di mano ce l'hai? Via. Cosa? Cosa ti serve? Il baracchino per casa a te, alimentatore, cosa ti serve oggi? Ne ho diversi per casa, c'erano anche con le bande laterali, quello che stavo provando prima. Anche Vito, c'era un bellino per casa oggi, se ti interessa. È positivo, dai, già ne ho qualcuno di quelli lì, e te li guardo. Portate a Roberto oggi. Da Roberto c'è quello di Pierpaolo, che lo deve fare, il mio 8001 che mi ha fatto, l'8001 mio che me l'ha chiamato prima e gli ha cambiato la modulazione, l'ha fatta più robusta, non so, di Vesta, sperando che non mi abbia fatto la modulazione, gli ha cambiato la cosa più robusta. Ah, dice la verità, quei due neri, per metterci la scheda, non se le passa. Che era quello che sto parlando adesso, prima di farlo, facendo fare perché mi rientra quello lì. Ma questo che sto parlando adesso, quello nero. Non gliene dati, quindi ancora a fare. No, negativo, che cazzo, adesso gli ho mandato quello di Pierpaolo e l'altro gli ho mandato, è l'8001 mio che è pronto, è quello di Pierpaolo e poi uno di Gianni Avvoltuio, di Roma Zona, che ha sempre problemi. Ah, positivo, ok. Riprendi Popponi oggi. Ci vuole lavorazione bestiale, ci vuole. Un'azione da divertimento, là, più o meno. Ma sì che positivi sono, vale? Sì che sono positivi. Auria. Tu devi trovare qualche giorno, mettersi con la capsula che nera che ti ho dato, in un microfono normale e poi guarda in quel baracchino con l'eco. Se ce l'hai ancora, per come esce. Ci fai vinto, sì. Ora, 1, 2, 3, proba radio. Aspetta che sento questo qui, cavolo di garaggio. Aspetta di là sopra, là, e magari per più caldo. È positivo, adesso, ma che ne sono, lascia vedere se abbiamo così avviso. E 5 adesso. E allora cambio radio pure, dai. Perché quella lì entra lo stesso? Cosa ne so, e chi sa che si un po' confusita mi pare. Cava. E tu non mi hai sentito adesso quindi l'8001 lui? No, se è lì l'ha fatto oggi, me l'ha chiuso, me l'ha fatto oggi. Io non l'abbia fatto bene. Aiuti fammi vedere su di Pierpaolo, di farlo come si deve. Che brutto era quello? Ma no, va bene quello di Pierpaolo, però di farmelo bellino, dai, una volta che ce l'hai in mano lì. Cava. E tu c'è sempre quello di coso, no? 2.48 adesso. Sì, va bene, che sono prende il colpi quello lì, veramente va bene, veramente Massimiliano, cazzo, in cambio va bene. Positivo, là. Chissà che titolo c'è lì, tu? Sì, ma me l'hanno detto che cosa è quello che c'è nel fianco, che ti ho detto, l'hai visto quello che c'è nel fianco che è cambiato? Sì, quello è. Secondo me è quello lì, perché anche perché si ha un pezzo a maledizione, riceve parecchio pure, sento quelli lontano li sento proprio bene. Poi gira anche bene come radio, no? Positivo. La pagava. Tu cosa dici? Non è bianco? Sì. Quello che c'ha 8.000 euro tu. Ah, lui l'ha sentito un giorno che ero lì a Cagliari e che lui era stato anch'io. Però niente, già. Eppure cavolo, sentivo da Cagliari, sono arrivato sino a Cosa, sempre parlando e mi sentivano, io sentivo a lui, capo. E già li fa bene, maledetto Sabatino. Già lavora bene, ha fatto bene. Ma non è che non più attaccato, mi si vede, non so cosa è già tutto. Cosa? Il brutto. Quello che l'avevo sentito domenica scorsa, che l'avevi attaccato. E tra l'altro mi piaceva. Tutto, no, non va come doveva andare. Hai capito? Prima faceva da 1 a 50 avanti, l'importante è piatto, ma non va di più. Forse è attaccato qualche filo, o magari qualche condensatore che è andato a farsi fottere, Più di un anno c'era dentro il mobile messo da parte, hai capito, è stato operato. Positivo. Ma chiama che è? Ho sentito qualcuno che chiama Gigi, avanti che è? Chi è? Ma Luca è? Ciao Luca, buonasera. No, io ti ascolto un pazzo, non so come ti ascolta Massimiliano, Non tanto di Massimiliano. Perché lui? Non lo sento. Io non lo sento un pazzo con questo. Luca è Luca di Fornotore, deve essere al muro a qualche parte imboscato con la macchina. No, io non lo sento. Lui l'ho trovato, L'ho trovato, Smith al bianco, sì, l'ho trovato. E l'altro, lo sfondo nero, lo frequenzivo. Lo sfondo verde, lo frequenzivo. Ma guarda le caratteristiche, cosa fa, se l'hai trovato. Ascolta un secondo. Non so se sono dentro, dai, non so come sono le meglio. Allora, Gigi Vulcano, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Ti ha salutato. Buongiorno, la Liturnia da Uesta. Ciao Luigi, buongiorno. Saluto anche agli amici che sono a ruota. Sono entrato a chiedere un piccolo rapporto di segnale, Gigi. Ehi, ma che è? Benito? No, Benito non può essere, chi è? Attivo, già fra con la Liturnia, buongiorno. California, ma già Franco, tu sì. Ehi, da lui, cosa sta? Tutto ok? Positivo, positivo. Fra. Tutto a posto. Lì insieme con Luca lì. Ma negativo, sono a casa adesso, Gigi. Però c'ho abbattimenti. Ascolta, me lo potresti fare la cortesia, dammi un rapporto di segnale. Ecco, questo è un po' generoso, perché c'è 9.30 su questo qua, però lui è un po' generoso. Non è Benito, è Gianfranco, California. È positivo, positivo. Io non ho capito che stava parlando una macchina tua, cavolo. Pensavo che era qualcuno lì con te. E da stazione fisica, guarda, volevo segnare. Peccata Gigi, ok. Comunque saluto anche la rete del portatore, non ho copiato molto bene su QRZ. Già fatto California a Sassari, dai. Il segnale 5-9 qua a zona di Sassari, Luigi, anche per te 5-25, 5-9-25, dai. Ciao Gatto Silvestro, buongiorno, ben ascoltato anche a te, capo. Ti ascolto a 7-5, dai. Però è questo che non è stato preciso, mi segna troppo, non te lo dico perché non è giusto lui, però capito, fra, perché qua mi è andato oltre 9.30, ma non è giusto lui come cosa, mi è molto generoso. Antonello, buongiorno, buonasera anche a te, dammi un rapporto, Antonello, di segnale, 5920, sì, qua, come sta arrivando la tua zona? 5 la radio 920 di segnale. 920 anche per te, tra, qua, radio 5. Ma volevo sapere se la radio era buona, pulita, tranquilla, com'è? Fa schifo. A voglia che sei bene. Che è quel bastardo che hai detto che fa schifo? Non più forte di Sassari, Bulldozer con la buonasera, ma comunque fa schifo la radio. Vero? Eia. 59 più 20 anche qua, Ok, grazie, dai, il rapporto contraccambiato, 9 più 20 anche tu stai arrivando bene. Positivo. Ok. Gigi, cosa fare fa? 5 watt e 25 watt in banda. È positivo. Gianluca, io porto Torres con la speranza che mi ascolti, Ma non mi sa che già funziona un po' di polvere, cioè, ma non mi fa niente. no, pesando le cose 140. Ma negativo? Attacca quello grande se ce l'hai, così è meno vicino, più forte anche. Via via. Ciao la gara. Io sto facendo quello, buzzinoso. C'è il microfono preficcato, ma sentito? Certo, 9:30 arrivi da qua. Da qua. Guarda adesso, dai, prova, 1, 2, 3, 4, 5. Prova le patate, se sono bollite. Cos'è? Gazzo, sì, va. Metto gazzo, Ah, non è soltanto quello con il microfono, è 1:100, stai tranquillo. C'è il microfono preficcato, già. Quello è un 1:300 minimo. Peccato, 1:300, praticamente sto usando una alla 68 adesso in questo momento, comunque. Avevo un po' di dubbio che era quello lì. E quello che mi hai fatto fare tu la modifica, Gigi, ti ricordi? Sì, e mi pare anche il microfono quello che ti ho dato io. Certo che sì. Positivo, lo so, è quello lì. E questo non si vende? Sì, tanto non te lo può pagare nessuno, ti lo vendete, no? È vero, me. Adesso non ti vende il barattino, questo di là, no? Ma carregalo magari ti richiedono subito. Ma a vendere, domani ce la farò comprare. Non ci sono più soldi, non c'è neanche per commercio, mi risette, per quello che siamo, pochi. Beh, su internet magari trovo qualcuno appassionato. No, io stavo cercando 440. Male sia andato, non so se ce ne siano in giro, ma te ne sono venduto. Quindi non so cosa dirti, dovresti chiedere magari Claudio o qualcun altro se ne ha qualcuno di 440 in vendita. Andro Tigre lo sta vendendo di Porto Torres, il 440. Come vuole? Ma cosa ne gioco io? E voi un po' fanno lascia perso starà. Tu non lo conosci a Sandro, ti dovrei fare uno squillo. Ma negativo, non lo conosco. Ma lei voleva 4,50 nel bar. 400-450. Ma sai chi è già un po' di produttore se già lo sa lui? Paolo se ne è andato su un altro canale a fare l'amore con Luca. Vabbè dai, vi lascio un attimino e vado a farmi il caffè, dai, riprendo dopo. Ok, ciao a tutti per adesso. Ah, a me non ti vengo a tremolare. Ciao fra. Ciao dopo, dai. Va bene, ciao fra, ciao. Riprendere. Allora, il caffè sta facendo. Chiso è in furvendi, altro del caffè. E cos'è, ormai? Una volta arrivi dove? Ormai è fatto 50 anni, a possesso levare si piega la gamba. Ragava. Sì, ma la gente è tipo un baracchino, c'hai ragione. Appena più grandetto, ma... No, ragava. Tutti vendendo, tutti comprando. Iaia. Io mi sto vendendo il 48, vale? Il 48, quello modificato. Certo. Allora, io c'è 500 euro, ti voglio. Con 500 euro sai cosa un bel dopo che c'è. Se vai da cosa, da negozio, voglio invece roba. No, la paracchina non la compro più. Ma sono quei due che ho già li visti. L'unica cosa che faccio fuori è quello che non uso qui. Basta. Che cosa c'è che non usi? Non va nulla. Non va giunta. E questa roba che c'è la mucchiata nell'angolino. No, non me ne sono accorto di quello. Di quella roba che c'è la mucchiata. Cosa c'è la mucchiata? E c'è il monitor del computer. Vabbè, il computer non serve a niente. C'è il monitor del computer, non faccio niente. C'è... Vabbè, cose che mi servono, quindi li tengo. Poi c'ho quelle cose di canto stereo e... C'ho dei due ricevitori, vabbè, satellitari analogici, non digitali, quindi non servono a niente. L'unico digitale che ho è quello della Intel, della SIM. E voi cosa le trovate? Devo controllare. Non lo so. DVD c'ho, vabbè DVD non servono a niente, 10 euro, e se vai a quella qualità li trovi quanti ne vuoi. Sì, vabbè, 10 euro sono buoni, meglio c'è Granduia. Ah beh, se è roba che non uso, sì, prenderemmo l'acqua buttata, allora che dici io, me ne frega. Adesso me ne faccio un giro, uno di questi giorni, dicendo al centro storico, se trovo una ragazza in spagnolo, gli vedo il DVD e dice che è una satellità, non c'è almeno una montata, meglio niente. Ma te Gigi, c'è più in secca, lo so, e lui è ragazzino, ancora giovane. E la gamba fugge, diglielo. Ricorda una cosa a me, tutto quello lasciato è perso, mi popo. Ah, quello sì, quello è vero, tutto quello che lasciate è perso. Anche quando vai in banca, quando trovi qualcuno che si dimentica il portafoglio, arreganilo in casa, posso dirgli la parola. È positivo, positivo. Io l'altro... La cosa è che... l'altro giorno non faccio un portafoglio appresso. Torniamo anch'io, veraccio. Come te faccio, sei mitigato? No, se non vogliamo fare, te l'aiuto, se non vogliamo fare, pusciata. c'è un periodo, lui, che quando andava il rifornitore per dire quello di la Giovtentura, no? Per la festa la gente o si dimenticava il portafoglio, o si dimenticava il cellulare, insomma, la pensilina del coso. Ma sai, quanta gente si dimentica la roba? Vabbè, se vai all'aeroporto ti fai al coso, il gigotto della roba che c'è dimenticata da tanti anni, all'asta poi. Cellulari, vestiti, filmati, cose del genere. Bisogna avere il soldo in mano e andare lì ogni tanto, dove c'è l'aeroporto, lo fanno l'asta, a recuperare a 10-20 pezzi per volta. Ma lo sai, anni indietro, un po', senza fare nulla, è un collega mio di lavoro, lavoravamo già assieme, e passa questa macchina e ti lascia questo borsone sopra la capota, e vedete che sono fermati in piazzola o mal di pancia o quello, una cosa, e l'altro non fa migliora, forse non ha fatto, ma ti lascia questo borsone sopra la capota della macchina. E che ti cambia a pezzi, ma non ingaggia, si deve venire a cui, era un buone in gabbina. E che lui dice, cosa ha fatto? Ha pigliato, però non è stata controllata, ha pigliato e entra a casa Giulia, comincia a controllare, e dirà che è montata brutta, e pure non abbassi, controllando una cosa, e l'altra, che era il cippetto, una cosa, e se ci ha preso un borso, l'altra tipo portafoglio. Verani 13 milioni e 30, non vi ha ricevuto come te bene, 13 milioni e 30. Hai visto, alza il culo che è andata, eh? Si è fatto la giornata, si è fatto. Scommetto che non è andata per una settimana a lavorare. Si è andato già, e poi spaventato, non sapeva, tu sei manco c'è andato un rally, non sapeva di arricchire in bus. Non c'era documenti dentro, se no gliel'avrebbe tornati, non lo so, però gliel'avrebbe tornati. Però non c'erano documenti, capito? Vedrà che mutanda brutta, me la metto a culo, c'erano 13 milioni, se non va a fare l'altro della casa. E si ha fatto l'altro l'attenti in rimugi, che gli si intendia che cosa in giornale, che si cavano in città, una cosa e l'altra. E sono passati anni adesso. E poi ce l'ha, 13 milioni c'era. 13 milioni dentro. La trecca, una vittoria, a volte. Ora che entrava un po' di gente, una volta si dimenticava un bel di roba. Adesso è molto difficile, con la crisi che c'è, un bel di gente sta attenta adesso, non dimenticarsi nulla fuori. Non lo so, io la gente che non lo so, io in vacanza, la valigia, la cosa, e mo' preso. E stavo dicendo sopra la capotta, è capitato lì, a volte partono con un borsello, qualche cosa, con i botti, a volte tante volte è capitato pure una linea in bicicletta, che è una metà cura, e inizia con un borsello sopra la capotta della macchina, io qui da renda a presa, se le sai, mi ricaggia, la prima lontanata, e andavo a leggere, vedendo che quello non ce ne aveva in terra, ma non già ci ha fatto. Molta gente è fatta comunque così, c'è un amico mio addirittura quando andava a telefonare alla cabina si dimenticava, si aveva comprato il pollo a vostro, non volevo, si aveva lasciato il portafoglio quando è entrato dopo 5 minuti non ha trovato un tubo, nel pollo non è stato meno il portafoglio. E gli succede, a me mi è capitato un telefono una volta, e sta facendo la siliqua, guarda, una stradina anche stretta. A certo punto il centro carreggiata vedo, ho visto un telefonino. Tira un telefonino, gli ho frenato e mi sono confermato, ma fallo anni fa. Va anche a mio figlio, a Mauro, a quella ragazza. Mi raccoglio. Cosa gli ho fatto? Manco 20 minuti ci sono passati e gli hanno una telefonata. Mi chiamano, dice ma lei ha trovato un telefonino. Adesso lei mi deve spiegare come ha fatto ad arrivare a me. Dice come ho fatto, dice, ho chiesto, mi hanno detto questi materiali utili che hanno visto un camion fermato e raccogliere qualcosa e ho pensato, lì ho chiesto alla San Giorgio, ho telefonato alla San Giorgio, c'è qualche macchina che scende articolata, c'è la ditta oltre male trasporti, ritraggia oltre male trasporti, tu arrivi a dare un numero di telefono mio, dopo di 20 minuti già è riuscito un quadrato del telefono. Vabbè, quello sì. Ma a volte capita, a me mi è capitato di trovare un telefonino buttato in terra nella strada, figurati, l'ho raccolto, c'era la carta dentro. Telefono non si fa niente. Evidentemente un ragazzo si è distratto con la ragazza e con le pietre di lampadura. Dopo due giorni ha cominciato a scuotere il telefono, la carta. Mi fa pronto Giovanna, sono Giovanna io, sei di chi? Mi ha detto, tu guardi che io ho trovato questa carta qua, gli ho detto per strada, col telefonino, ho detto il telefonino a pizzi. Comunque ho detto la carta se la volete, ho trovato dal fondo dei carabinieri, ho detto così la Silvia la recupera, dice no, faccio, dice, se la tenga, mi ha detto, non me ne faccio niente, ne ho preso un'altra. Positivo, può succedere. No, questo come tanto si è spento, ci vuole del pin per accenderlo, ho capito il telefonino, allora è rimasto spento, se no l'avrei anche cercato, avrebbe squillato, invece non potevo accendere perché ci vuole il pin, si è detto il pin, allora niente. Era un geometra, se l'aveva dimenticato sopra la cappotta della macchina, l'ha appoggiato sopra la cappotta della macchina, se l'aveva dimenticato lì. Sì, guarda che una volta un amico mio siamo andati a fare un lavoro lì dentro la caserma dei carabinieri di Giorgia, esatto, sì. Gli ho detto, non sai il telefonino fuori in terra, te lo dimentichi. No, già me lo ricordo. Già si sposta, va da un'altra parte, dopo 5 minuti non trova neanche per telefono, ho dovuto fare la denuncia dentro la caserma al comandante. Sì, no, io ho già visto in un punto, mi sarebbe era Gianfranco, c'era Franco California, era di fuori. Dai, forse c'era Franco California, c'era un punto gatto, fricchetti, e c'è andato a fare, non so che sei stato un gruppo a pigliare cosa, no, a me, gatto dalla busciata, mi ha fatto un mucchio in mare, in un punto. Sì, guarda. Tu fondo sei parato, mi. Mi fa recuperare il mare, si incendia subito il telefono, come fai a recuperarlo? Una volta che prende acqua, ce lo devi buttare. Sì, che cosa è fatto entrare da volare in leva? Sì, era quello di Tonaghil, si è fatto entrare da volare in leva. Ma lui l'aveva lasciato proprio, se fosse caduto dentro l'acqua l'aveva lasciato indietro, via dei culi. Anche perché se fosse magari spento, sì, con la macchina staccata, se cade in acqua lo asciughi e non ti succede nulla. Però se ti cade acceso, va subito in tilt, va con distruirci a recuperare. Lo so. Anda bene, faccio anche ghiacciati, mi salta sopra, va, e mi scaldo un po' nel fuoco. Ah, dietro a casa c'è il camminetto, che stai meglio, sai. No, io sono in garage, cazzo, quello stava giù compreso, che uno va a casa, c'è finito dentro casa e se n'è in garage, già ti scaldi ogni tanto, bevi qualche goccia di acqua a vite e dai ti scalda un po'. No, non ho bevuto nulla, però già ce l'ho già, l'acqua a vite già ce l'ho lì a portata di mano. No, non ho bevuto nulla, e bevi con limoncino. E vedi, ti scalda un pochettino, bevi appena di limoncello. È positivo, vado e mangio una freggiola, mi mangio una frittella. Oggi sono venute le voglie delle frittelle. Gli ho fatto un chilo di varia, un chilo di frigiola gli ho fatto. Oh, io non riesco a mangiare le frittelle. Se non ne mangiavo una, non di più, due. Io non riesco più a mangiare, mi nausea almeno la frittella. Sì, infatti da fuori di un'oretta ero già in bagno, perché gli ho mangiato i cazzi. Infatti io mi fate fritte e puro, infatti io. E vabbè, sei un buon cuoco allora. Sì, ti ripeto io adesso qua. Via. Sei rimasto, ti spariti. Non sai niente, adesso ma non si fa lo succio che ti faccio il tanto baracchino manno, mannaggia. Mi non ricordo faccio, no, adesso me ne porto uno di quelli piccoli da qua. Io ci sono, ero d'ascolto. Faccio sì, Massimiliano. E adesso tanto mi scaldo un po' su. Cioè non mi serve di dopo che accendi, no? No, ti stavo ascoltando e stavo frugando di quella cosa là che mi hai detto, capito? Positivo, positivo. E la cosa l'avrò. Quasi più di un anno ce l'ho quel coso lì, lo sai, ce l'ho più di un anno, quasi 2 anni ce l'ho proprio. Ma nuovo, eh? Diciamo di sì, diciamo di sì. Sì, è nuovo, è nuovo, è vecchio. Vuoi sapere quanto si vale? No, no, abbiamo anche parlato troppo oggi. Ok, andà bene, vai, scaldati, vai. Ok. Ai ai ai, bene, poi accendo il sudato, se ci siete già riprendo sopra dopo. Prima vado e mi scaldo, mi mangio la frigiura. E mangio la frigiura, va. No, noi ieri ci abbiamo mangiato un po' di salata, se eravamo al pranzo dell'azienda. Ecco, ieri era giù finito, aveva torre appunto a capo. Ma ha trovato la Manuela, era africano, e mi ha detto che sono ripiglietti, no, che ti vedi fastidio. Trova troppo a quel pianale, stava forse che ci ha portato Mizzi. Dice devono riniziare. Sì, già lo so che devono riniziare. No, hanno già riniziato. Ma perché ci va a lavorare anche lui qua? Qua la... quando è? Giovedì era qua lui, mi pare, giovedì sì. O mercoledì o giovedì era qua. Trova prima, ha detto che stavano riniziando. Andava bene. È un casino, no? Io dico, quell'altro lì ho finito, buh, adesso tocca da cercare di nuovo. Io ho visto quei mitici, un altro giorno stanno portando in zona di Cagliari, c'è quel pianale carratrice, cosa è, tipo carratrice, e carica uno al giorno di quei mitici e sta portando via Cagliari. Ma quelli dei Mr. Bapulic? Quello... sì, quello che è la grande grande, no, forse. È positivo, è lui. Scusate, mi ha chiamato mia moglie, ma la prende mia figlia laggiù. Riprendo subito. Pacetti, pacetti, pacetti. E io mi ci devo accendere sopra, mi scaldo un po' e anzi ho fatto una brattata di legna, mi scaldo un po' e poi se c'è cosa mi accendo un pochino dall'altra parte. Là. Vabbè, adesso non ascolti. Avanti. Ciao Massimiliano, e beh. Giulio, buonasera, ben sentito, ben entrato. Anche a te, da parte mia, Massimiliano. Non si sente nessuno, io c'ero adesso. Eravamo una bella volta, c'era Gigi, c'era Pompugno, c'era Enzato California, c'era Eugenio, c'era Luca, c'era Giampaolo Silvestro. E niente, là, poi siamo arrivati io, Gigi e Pompugno. Gigi se ne è salito su, era in garage che c'era una fredda ai piedi. E avanti è andato a mangiare frigiuri, però ha detto già rientrato. Voilà. Vediamo un po', c'è rimasto Pomponio, ci sei? Ma che non c'è Pomponio? Allora sono andato a ritardo Massimiliano, no, ero al computer così, un po' navigando al computer, tanto per passare un'oretta così. Dopo pranzo, insomma, mi sono messo al computer, sì, adesso, proprio, sono salito 2 minuti fa, qua ho acceso. E non c'era nessuno, ho già attaccato, non c'era nessuno. Fatto, ma vediamo un po' sul canale 5, c'è qualcuno prima o poi arriverà. E se è arrivato tu mi fa molto piacere. Avanti, Massimiliano. È positivo, va. Comunque, ti ricordi che ti avevo detto che Tiscali non funzionava, ti avevo chiamato, boom, bam. Niente, anche a me qualcuno mi ha bruciato il router. Sì, beh, Massimiliano, guarda, proprio oggi, adesso ti spiego, guarda, amiche di mia moglie, no, che qui vengono, diciamo, durante la settimana, perché mia moglie fa una scuola di maglia, eccetera, no, beh, lo sai, tutte le persone della zona, qui ai Punti, San Giovanni, tutta la zona, insomma, tutti quanti hanno bruciato il router, infatti tutti quanti, se non abbiamo più la linea, lì, se deve essere qualche guasto, invece il problema era proprio questo. da Alice e sta aspettando perché non essendo di loro il router glielo cambia, capito? Questo adesso non so cosa dire, io l'ho subito comprato perché a me mi serviva per il lavoro di mia figlia, la sera stesso l'abbiamo comprato, 50 euro un massimo di anno. No, no, io ho chiamato la Tiscali, siccome ci sono un po' di anni con loro e me lo stanno mandando, l'hanno spedito il 29 gennaio, penso che questa settimana mi dovrebbe arrivare nuovo. Figurati, a me mi ha bruciato 5 cose praticamente. Allora, intanto il router, perché noi usiamo anche il computer nelle altre stanze, no? E se, dunque non ho il modem, cioè ho il modem router che fa tutte e due le cose. E poi mi ha bruciato i due baracchini, come ti avevo detto, mi ha bruciato il 747 e l'alimentatorino lineare e il famoso switching alimentatore. Praticamente mi ha bruciato 5 cose e così io non sono colpo. Ascolta però, vado giù. Il 747, se tu lo apri, c'ha quel diodo grosso davanti, capito? Sicuramente non ha, i finali non sono bruciati. Tu, se tu con la forbice le tagli quel diodo, dovrebbe funzionare, lo sai. Non lo so, Massimiliano, io non l'ho aperto, l'ho messo dentro il cassetto, adesso l'ho conservato, poi non so cosa fare. Ma se mi stai dicendo così, se tu sei pratico, allora lo apro e guardo un po', se è quello, al limite il diodo lo posso anche staccare e controllare col tester se è ancora, se è interrotto, volevo dire, eventualmente quello lo posso anche comprare, lo sostituisco, non è un problema. Guarda, tu una volta che lo apri, davanti, proprio dove c'è l'alimentazione, c'è un diodo di quelli grossi. Tu basta che lo tagli con una tronchesina, qualcosa, lo attacchi alla corrente e vedrai che secondo me, perché adesso a te non ti si accende neanche il LED rosso, giusto? No, è quello il problema, il LED accende. Infatti il LED accende, infatti te lo stavo per dire, ma poi mi è uscito di mente e te lo volevo dire adesso in questo passaggio. Il LED accende, però non va, non funziona. Sì, ma allora, se l'ha bruciato, attenzione, se l'ha bruciato lì secondo me c'è qualche problema, ha bruciato roba di corpo, di corrente, non ha bruciato i finali. Mi sembra strano che da spento abbia bruciato i finali, hai capito cosa ti voglio dire? Ho capito Massimiliano, ma non so nemmeno io, qui era tutto spento e mi ha bruciato tutte quelle cose, perché io fui fino al momento del banco ero su e giù al computer, sì che ti puoi immaginare, mi ha cerchiato una luce immensa e uno scoppio tremendo, come se ci fosse stata una bomba dentro casa, proprio un suono, un frastuono enorme, ti puoi immaginare, e mi sono visto cerchiato da una luce immensa, pensa che quella luce addirittura coperto la luce del giorno, perché eravamo di mattina, ti puoi immaginare Massimiliano, è stato poi giù nella tabernetta e si è visto passare anche il lampo, ti puoi immaginare, perché giù c'era mia moglie che ha visto questa cosa, questa luce, così non passargli vicino alle gambe, hai capito? È positivo, positivo. No, io infatti dal giorno, allora ho fatto così, in poche parole mi sono messo una ciabatta, quella col pulsante, hai visto il pulsante che spegni e si stacca tutto alla fine, prima di arrivare diciamo all'uscita gli ho messo un salvavita, oddio, gli ho messo un salvavita, capito? Ok, Massimiliano, guarda qua, tanto per dirti, io uso una ciabatta, no, dove attacco tutte le spine, però questa ciabatta è attaccata alla presa, che tra l'altro questa presa funziona tramite interruttore, sicché per poter accendere io, innanzitutto devo dare corrente dalla presa, da dietro il comodino, intanto per spiegarmi bene, c'è l'interruttore, con la presa funziona tramite l'interruttore che è attaccata alla presa stessa, no? Poi la ciabatta anche quella all'interruttore. E nonostante tutto, due interruzioni è passato ugualmente, te immagini? No, io dico che è passato forse attraverso la rete telefonica, che ne so, boh, perché se no, perché lì ci ha attaccato anche il televisore, ci ha attaccato tutto, e fortunatamente il televisore non ha avuto conseguenze, capito? Solo la stazione che ha subito tutti questi danni, niente di più, capito? Meno male non me li ha bruciati tutti, me ne sono rimasti un po', se no guai, tutto il tavolino qui era tutto collegato nella stessa ciabatta, sì che ti puoi immaginare. Vabbè, nella sfortuna c'è stata anche un po' di fortuna, se vogliamo. Vabbè, ma comunque, cioè, quando tu adesso quei baracchini bruciati li colleghi, accendono? Allora, uno accende, però non riceve, non si sente niente. Sì, vedo che manda la portante, non so se trasmette, però la portante la manda. E non riceve in ogni modo. Quello, l'altro proprio accende ed è completamente zitto, non si vede niente, nemmeno portante, nulla. Capito? Positivo. Ma comunque io per togliermi un dubbio li avrei fatti controllare, capito? Magari se sono baracchine che ti possono interessare. Cioè, se non ti interessano, pazienza, ma se sono malattie che si potevano sistemare, almeno darle una controllatina, li avrei fatti controllare. Vabbè, la paiette che va in banda laterale, diciamo che è importante, 40 canali, però che va in banda laterale, no? Poi l'altro invece era quello da 400 canali, che era quello multistandard, cioè quello con i baracchini che si possono usare in tutta Europa, capito? Sicché insomma, poi tra l'altro quello era anche un regalo di mia figlia, ti puoi immaginare, e poi ce l'ho anche in concessione tra l'altro quello, figurati di Massimiliano, sicché non lo posso nemmeno eliminare perché ce l'ho in concessione quello, come matricola. Sì, ho capito. Comunque, per togliermi uno sfizio, giusto, a darle una controllatina l'avrei mandato, perché magari con una cinquantina di euro magari tutte e due te ne esci e c'hai di nuovo gli apparati efficienti, capito? Volevo chiedere, ma questa manifestazione che dovevano fare, se è qualcosa, se è domani, se è la prossima domenica, ce la fanno? Ma io non ho più sentito nessuno parlare di queste cose, non so cosa dirti, Massimiliano, non so proprio. Loro avevano detto dopo 3 settimane, ma 3 settimane sono già passate, mi sembra, domani, no? Però non ne ha parlato più nessuno, evidentemente si sono disinteressati tutti, boh. Sì, infatti non ho più sentito niente, infatti ho detto, adesso chiedo a Giro, magari sarà più informato di me. E vabbè, pazienza, là. Vediamo un po' se Pomponio è rimasto. Pomponio, Gigi, ci siete? Se Gigi è andato a mangiare le frittelle. Adesso si sta ingolgando per lui, alla grande. Gigi, non mangiare troppe frittelle che ingrassi. Se mi stai ascoltando. Pomponio non risponde, perché evidentemente anche lui si è allontanato da parecchio. Sicuramente magari sta facendo cosa lì, dai. E niente, invece giù tu per l'antenna hai fatto qualcosa, l'hai acquistata, cosa fai? La cambi? Sì, la cambio, ma appena che mi do del tempo, perché adesso cosa fai? Sta sempre piovendo. Certo, la cambio. No, ma volevo dire, l'hai già acquistata? No, ancora no, ma quello è già questione di poco tempo, un paio di giorni è qui. Chi è che vuole entrare? Avanti. Ciao Giampa, 95 Radio 4. Buonasera anche a te, in compagnia di Giulio che te lo mando avanti Giulio. Ok, ciao Giampa, salutoni, ben entrato, avanti, riprendi. Ho capito Giampa, sì, già va bene, sì, già va bene, non ci sono problemi. Tu hai la, cos'hai come antenna, Giampa? cosa che hai, così confermi. Il messaggio, eh.